Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Oggi è mercoledì ed è il giorno dell'attività Pizza con Pietro. Sono arrivata da poco in questo centro disabili come educatrice. I miei nuovi colleghi, nello stendere il piano delle attività, hanno deciso che quest'anno sarò io a fare l'attività Pizza con Pietro. Io sono Lidia, ho 54 anni, sono educatrice e lavoro in un centro disabili. Ho la fortuna di fare un lavoro che mi piace e che mi fa imparare tante cose. Arriva la primavera, vabbè, forse un po' esagerato, arriva, diciamo, il bel tempo, il tempo un po' più tiepido, e voi siete qui, inizia ad uscire dagli studi di Via Monterosa 91 e a fare puntate, programmi dal vivo in giro per l'Italia. E per quanto riguarda invece la città di Milano, lunedì 17 di marzo, cioè tra due lunedì, potete venire a vederci, se avete voglia, a sentirci e a partecipare dal vivo. A Voi Siete Qui, ve lo ripeto, lunedì 17 di marzo, sempre alle 16 ovviamente, al Pirelli Store di Corso Venezia numero 1 a Milano, proprio attaccato a Piazza San Babile. Noi siamo lì e c'è anche una sorpresa che ho scoperto stamattina, ed è una roba per gli amanti delle automobili e dei simulatori. C'è praticamente una Formula 1 piazzata lì con un simulatore, ci si può salire e fare dei giri di pista, qualunque sia la pista che vi piace. Quindi, se avete voglia, ve lo ricordo, lunedì 17 marzo, tra due lunedì alle 16, siamo lì. Visto che noi trattiamo qualsiasi cosa a modo nostro, e quindi racconteremo una storia legata alle automobili, legata alle corse, alle gare di automobili soprattutto, se avete voglia quindi di partecipare in qualche modo a quella puntata, se volete mandare una storia, se siete stati dei piloti, dei copiloti, dei, come si chiamano, dei navigatori, se avete visto delle gare, se in qualche modo avete una storia legata a una corsa di automobili, voi siete qui, @radio24.it. Come al solito basta una pagina e mezzo, basta che voi abbiate partecipato a quella cosa e che ci sia un episodio legato a una corsa o a un'automobile da corsa. Voi siete qui, @radio24.it. Continuiamo a raccontare storie, lo facciamo in studio, lo facciamo all'aperto, lo facciamo lunedì 17 al Pirelli Store di Corso di Porta Venezia 1 a Milano alle 16, vi aspettiamo. Ciao, potete venire anche solo a fare pubblico, c'è un sacco di posto e il posto è meraviglioso. Buongiorno a tutti, sono le 16:09, oggi invece è il 6 di marzo, è un giovedì, quindi si avvicina il fine settimana, quindi si avvicina un pochettino la vacanza di ogni settimana. Noi, come vi avevamo annunciato, abbiamo inaugurato un mini ciclo di 4 puntate che parlano di cibo, ovviamente a modo nostro, quindi storie legate al cibo. Ed è arrivato il momento di cominciare con la prima storia, che è la storia di Lidia, che parla di, direi, socializzazione legata al cibo, cioè un piatto, un giorno passato in cucina che in qualche modo vi ha fatto conoscere qualcun altro. 349-238-6666. Enza, ad esempio, scrive: il pollo fritto è il mio piatto, al mio fidanzato proprio non piaceva, eppure al primo appuntamento da soli lo convinsi ad andare proprio in quel ristorante dove facevano un ottimo pollo fritto. Lo mangiò nonostante l'abbondante porzione, per evitare che ci rimanessi male, ma alla richiesta di tornare in quel posto dovette confessarmi la sua avversione per il pollo. Si parla di mangiare, ma si parla anche di cucinare. Oggi, tra l'altro, visto che si parlava di pizza nella fattispecie, per gli amanti, per i cultori dei programmi di narrazione che facciamo da qualche anno, ho recuperato un pezzo in cui si parla proprio della pizza, del fare la pizza. Si parla di quello, si parla di Ettore, ma non ve lo anticipo, lo sentirete più tardi. Torniamo indietro, questa è la storia di Lidia, che parla di lei, di pizza e di Pietro. Oggi è mercoledì ed è il giorno dell'attività Pizza con Pietro. È la prima volta e non so cosa mi aspetti. Sono arrivata da poco in questo centro disabili come educatrice. In precedenza ho lavorato in altri ambiti, ma con i disabili non ho esperienza e sto ancora scoprendo questo mondo. I miei nuovi colleghi sono tutti già collaudati e, nello stendere il piano delle attività, hanno deciso che quest'anno sarò io a fare l'attività Pizza con Pietro. Allora, l'educatore è una figura che può avere molteplici aspetti, la può lavorare in diversi ambiti. Io lavoro nell'ambito della disabilità e uno strumento per lavorare con gli utenti dei nostri servizi è proprio quello di organizzare delle attività giornaliere, e la cucina è una delle attività classiche. Io avrei preferito un'attività di gruppo fatta assieme a qualche collega, così mi impratichisco un po'. E poi Pietro non è proprio un tipo facile. Faccio presente che io la pizza non la so fare, non l'ho mai fatta in vita mia, come faccio a farla con lui? E la risposta è: non ti preoccupare, Pietro è capace, ti dirà lui che cosa fare. Insomma, mi pare che i colleghi vogliano mettermi alla prova per vedere come me la cavo. Non ho via di fuga, e così oggi parto per questa nuova avventura. L'attività prevede anche di andare a comprare gli ingredienti per fare la pizza. Io e Pietro usciamo a piedi e andiamo in centro al paese. Entriamo nel negozio di elementari e lui, con la sua bella voce profonda e forte, urla: buongiorno a tutti! Ciao Pietro, risponde la commessa. Aspettiamo il nostro turno e quando tocca a noi, Pietro chiede nell'ordine la pasta di pane, i sottaceti, la passata di pomodoro e la mozzarella. Pago alla cassa e torniamo al centro con la spesa. Ora in cucina è Pietro che mi guida, o meglio, che mi dà gli ordini, e io eseguo prontamente. Posizionato davanti al piano di lavoro, comincia con voce decisa a urlare: grembiule! Fatto. Farina! E io verso un po' di farina sul piano. Pasta di pane e mattarello! Gli passo quello che mi chiede e lui con destrezza inizia a stendere la pasta della pizza. Quando sente di avere finito, molla il mattarello e riprende a darmi indicazioni. Teglia! Eccola. Olio! E io verso un po' d'olio nella teglia e lui con le mani lo stende per bene. La pasta va nella teglia! E io eseguo. Pomodoro! E io verso la passata sulla pasta stesa e lui la distribuisce. Sottaceti! Gli metto davanti il piatto con sopra i sottaceti e Pietro li mette sull'impasto. E infine, mozzarella! Sistemata anche quella, Pietro ha terminato il suo lavoro. Pietro è un giovanotto molto deciso nelle sue cose, che vuole essere indipendente, che ha un po' di ritrosia nell'accettare che qualcuno gli dica quello che deve fare, ma nello stesso tempo è molto disponibile ad apprendere, poi sa anche gratificare chi gli sta accanto con dei grossi sorrisi e dei baci che lancia così al vento. Ora tocca a me metterla nel forno e controllare la cottura. A pranzo Pietro si mangia la sua pizza e lo sento dire: buona la pizza! E sembra felice. Anch'io mi sento contenta. Oggi ho imparato a fare la pizza. Ma di più, ho scoperto che posso anch'io imparare da un'altra persona. Qualche anno fa avevo raccontato un anno della mia vita in un programma che si chiamava Io sono qui. In quell'anno entrarono nel racconto un sacco di persone e tra queste c'era un bambino che si chiama Ettore. Non ne parlo più da un po', ma Ettore sta bene e ogni tanto ci vediamo. È cresciuto e va alle superiori. Ettore non ha bisogno di un educatore, io non ho mai preparato una pizza insieme a lui. Un giorno però gli spiegai questa cosa, che la vita è come una pizza. Vedi Ettore, la vita è come una pizza. Ettore si è girato e mi ha guardato con quegli occhi che solo i bambini hanno quando non hanno alcuna espressione. Si capisce però che se non continui a parlare sei fottuto, perché possono fare qualunque cosa, da mettersi a piangere e urlare «mamma, mamma, questo mi picchia», fino a rimanere in silenzio per tutto il tempo che vogliono, all'infinito. E allora ho proseguito. Vedi, la vita è come una pizza margherita. È buona da mangiare. Quando esce dal forno scotta, però quello è il momento in cui è più buona, forse anche perché hai tanta fame. E allora la mangi veloce e ti ci bruci. Poi, piano piano, molto prima che tu sia a metà, la mozzarella si indurisce e la pizza comincia a diventare cattiva. Ma tu la mangi lo stesso perché comunque non è male. Solo che cominciano a venirti in mente delle strane idee, tipo di rimetterla nel forno per farla tornare come era all'inizio. Questo però non si può fare e quindi ci rimani male. In quel momento allora cerchi di divorarla perché ogni secondo che passa la raffredda sempre di più. E mentre la mangi con forza, Ti dispiace che non ci sia più la mozzarella filante, la pasta morbida, e ti viene un po' di malinconia. E in più ti si gonfia lo stomaco, perché stai mangiando troppo veloce. Ma se anche te ne accorgi, comunque non riesci a fermarti. E quello è il momento peggiore. Quando invece la pizza la stai finendo, ormai è fredda e fa schifo. Però pur facendo schifo rispetto a quando è uscita dal forno, è sempre più buona, che so, degli spinaci al burro. Per cui stai un po' lì fermo. Lasci che la pizza che hai divorato a metà scenda e incominci a goderti l'ultimo quarto, a pezzettini, come se fossero degli scarti. E lì ricominci a sorridere, perché la crosta, anche se dura e fredda, è gustosa e la mangi chiacchierando, quindi non le dai tanta importanza. E ogni tanto ti capita un pezzetto di mozzarella o uno di pomodoro, e allora ricordi la pizza quando era calda. Ti tocchi il palato con la lingua e senti che è ancora un po' insensibile, colpa di quando ti sei scottato pochi minuti prima. E il tempo si dilata e cominci a bere Coca-Cola. E pensi a come riuscirai a mandarla giù tutta quella pizza. E che te la ricorderai anche quando sarai tornato a casa. Ma non soffri, nemmeno quando c'è da pagare il conto. Perché una pizza è la cosa più buona che c'è. I only wish you pay as much attention to me when we're in bed. I mean I'm wearing next to nothing. I even put on a little spice. I long for you to hold me in your arms, but instead you cradle. È in montagna e nevica anche parecchio nella foto che ci ha mandato Lidia, anche se ce la immaginavamo a fare una pizza con le mani e a impastarla, invece, ripeto, è all'aperto, è vestita da sci, ha i capelli biondi che le escono da una cuffia nera e sorride tantissimo sotto la neve. 349-238-6666, arrivano messaggi che parlano di come in qualche modo si è socializzato attorno a un cibo, attorno a una pizza o a quello che era. E visto che a un certo punto Margherita e Tiziano hanno scoperto che esiste una cattedra di sociologia dell'alimentazione all'Università di Cassino, noi ci siamo eccitati tantissimo e abbiamo deciso di parlare direttamente con chi si siede su quella cattedra, che è il professor Lucio Meglio. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei. Come sta? Tutto bene, grazie. È in università adesso o è da qualche altro? No, sono nel mio studio privato. Ok, che è a Cassino anche quello oppure? Mi faccio un po' di fatti suoi, professore. Assolutamente, no, vicino Cassino, a Sora, la mia città natale. Ok, professore, partiamo da qui, mi dice che cos'è la sociologia dell'alimentazione, in due parole? Sì, è un'area di studio della sociologia che analizza l'alimentazione come fattore sociale nei suoi aspetti e culturali e sociali. Quindi questa storia di fatto ha a che fare con quello che lei studia, no? Il fatto che ci sia addirittura un'attività in cui un educatore con un ragazzo disabile prepara un cibo, prepara un alimento per farlo star meglio, per avvicinarlo, che so io, di più alla socialità esatto. Comune. Diciamo l'alimentazione più che con il suo aspetto naturale, ossia di sostentamento per il nostro fisico, che è ovviamente un bisogno primario, sì, ha una funzione culturale e sociale che è quella di aggregare. Già la stessa parola convivio deriva da convivere, vivere insieme, e lo stesso anche pane o compagno deriva da compagnis, ovvero condividere con il mio vicino un alimento. È proprio dell'essere umano mangiare insieme, stare insieme. Diciamo già i filosofi antichi parlavano del cibo come una res non naturalis, ossia un qualcosa che non ha a che fare solo con la naturalità, ma anche e soprattutto con la cultura. Tramite l'alimentazione noi possiamo creare un rapporto empatico, emozionale con l'altro, attorno a una tavola, attorno diciamo anche a una semplice bevanda, quando noi diciamo andiamoci a prendere un caffè con un amico o una birra, certo, tramite quella bevanda noi vogliamo instaurare un rapporto emozionale con un'altra persona. Ma professore, ma perché però per alcune culture come la nostra, come quella italiana, il cibo è fondamentale, al punto che ogni regione, ogni città forse ha un suo piatto specifico e la dieta mediterranea, dico cose che non so a caso, professore, però lei mi corregga, dicevo, perché sì, per alcune culture come la nostra il cibo è così importante tante, e ce ne sono altre per cui lo è di meno. Mi viene in mente banalmente la cultura americana, in cui insomma si mangia quello che, cioè si mangia più per alimentarsi che non per farla diventare una cosa legata alla cultura. Sì, perché ci sono culture e società che hanno in qualche modo costruito la loro identità sociale e locale attorno all'alimentazione. Noi gli italiani abbiamo questa grande tradizione del cibo e dell'alimento come, diciamo, nel suo aspetto identitario del territorio. Sì. Oggi soprattutto in questo rapporto globale locale, no? Quindi stiamo riscoprendo il nostro locale, le nostre piccole comunità tramite l'alimentazione, quindi pensiamo a tutta la riscoperta dei percorsi enogastronomici. E questa nostra riscoperta che cosa ci ha portato? In qualche modo ad allontanarci, o perlomeno a guardare in maniera critica al globale, a quello che è, diciamo, la comunità extra territoriale. E pensiamo come questa nostra riscoperta ha anche condizionato il global per antonomasia, le catene, diciamo, dei fast food americani, che poi si sono dovute adeguare al nostro local, costruendo addirittura dei panini italiani, locali. Quindi noi siamo, diciamo, un po' i maestri su questo, su come poter legare l'alimentazione al territorio e alla sua identità. Ma che lei sappia, siamo l'unico paese al mondo che ha piegato McDonald's e oltre ai cheeseburger gli fa fare i panini col prosciutto? Beh, che io sappia sì, noi abbiamo creato il panino tipicamente italiano, la catena McDonald's Italia ha cercato di utilizzare anche i marchi, no? Formaggi DOP nei loro panini. All'estero questo va un po' meno, ma questo perché noi abbiamo maggiormente un utilizzo dei prodotti tipici alimentari rispetto agli altri paesi. In Europa è solo la Francia un po' ci va a fare da concorrente. Certo. Sì, professore, lei cucina? No, io, diciamo, preferisco mangiare. Che cos'è che sa cucinare però un professore di sociologia dell'alimentazione? Nuovo. Ah, io sono un grande amante della pasta, quindi diciamo mi dedico soprattutto a quello. Che cosa ha mangiato oggi? Ah, oggi sono andato su pollo. Ok, carne bianca. Quindi scusi, esatto. Mi interessava moltissimo il fatto che il cibo dice chi siamo, e lo dice da un punto di vista sociologico ma anche antropologico, nel senso che banalmente io mangio cose diverse da quelle che mangia Tiziano Bonini o da quelle che mangia Paolo Corleoni. È una cosa che ha a che fare solo con il gusto o ha a che fare proprio con la cultura? Cioè che nella mia famiglia si è mangiato qualcosa che mi ha fatto mangiare quello che mangio adesso, oppure per opposizione mangio altro perché voglio allontanarmi da quella cultura familiare o regionale? Noi per definizione l'essere umano è un onnivoro, noi potremmo mangiare di tutto, io potrei anche in questo momento mangiare un foglio di carta, non è che in qualche modo mi sentirei automaticamente male. Chi è che ci dice cosa mangiare e cosa no? Chi è che ci ha costruito la nostra dieta alimentare? È stata la società, nel senso che se io adesso penso ad un insetto fritto, automaticamente ho una forma di repulsione. Certo. Però in altre culture e società quell'alimento è cioè proprio una prelibatezza. Esatto, quindi è la società che in qualche modo ci ha indirizzato cosa è giusto mangiare e cosa no, anche l'ordine delle pietanze. Noi mettiamo prima la pasta, poi la carne, ma potremmo anche investirlo. Quindi il menù sociale non l'abbiamo costruito noi individuali, ce l'ha costruita la società, la cultura. Professore, prima di salutarla, mi dice qual è la domanda che fa più di frequente ai suoi allievi durante gli esami? Beh, io parto sempre dalla parte teorica e poi pian piano scendiamo anche sul loro aspetto individuale, su come amano cucinare, ma anche come in qualche modo interpretano l'alimentazione nella loro vita individuale. All'interno di quale corso di laurea è la sua facoltà? Sociologia? Io ho la cattedra di sociologia inserita dentro un corso di laurea di giurisprudenza. Ok, va bene. Professore, la ringrazio moltissimo. Professor grazie. Lucio Meglio, docente di sociologia dell'alimentazione all'Università di Cassino. A presto, grazie ancora. Arrivederci, buon pomeriggio. 349-238-6666. Mi dicono che McDonald's si è adattato anche in Francia, quindi avrà fatto qualcosa con le bechamel. non lo so, non conosco la cucina francese. Mi ricordo però una volta una pasta che sembrava fatta per attaccare i manifesti. Stefania scrive: un piatto di riso nella mensa del reparto dell'ospedale, condividendo lacrime e speranze. Anche questo può fare il cibo. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile la puntata di oggi, ricordandovi quello che vi ho raccontato in apertura, cioè che che lunedì 17 siamo in onda dal vivo nello Storpirelli di Corso Venezia numero 1, e che quindi, se avete voglia di partecipare, oltre a venire a seguire la diretta come accade ogni tanto, mandateci una storia che abbia a che fare con le corse, con le automobili, le auto da corsa o in generale con una gara. Voi siete qui, @radio24.it. Ascoltate il podcast, scaricatevelo, ascoltatevelo in streaming oppure dal vivo. Voi siete qui ogni giorno, una storia diversa, ogni giorno una persona diversa. Grazie a Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, Margherita Ina, grazie a Stefano D'Andrea per la puntata di oggi, e soprattutto grazie a Lidia, perché la storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Antonio e viva Pistoia. La storia di domani è la mia e parla di un limite superato. Questa è la mia storia ed io sono qui.